Diciottesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Joachim. Inferno, diciottesimo canto. Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo. Quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura, tale immagine qui vi facean quelli. E come a tai fortezze da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien li argini e i fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo della schiena scossi di Gerion trovammoci, e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nova pieta, nuovo tormento e novi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori, dal mezzo in qua ci venian verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori, come i roman per l'essercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze, che li battien crudelmente di retro. Ahi, come facean lor levar le berze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava né le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati, e io sì tosto dissi: già di veder costui non son digiuno, perch'io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, e assentio ch'alquanto indietro gissi. E quel frustato celar si credette, bassando il viso, ma poco li valse, ch'io dissi: o tu che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, ve ne dico se tu caccia nemico, ma che ti mena a sì pungenti salse? Ed egli a me: mal volentier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella, che mi fa sovvenir del mondo antico. I fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella. E non pur io qui piango bolognese, anzi n'è questo loco tanto pieno che tante lingue non sono ora appresse a dicer sipa tra Savena e Reno. E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando il percosse un demonio della sua scuriada e disse: via, ruffian! Qui non son femmine da conio. I mi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo l'ave uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo, e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là dov'el vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: attienti e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che son con noi insieme andati. Del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che vene, e per dolor non par lagrime spanda. Quanto aspetto reale ancor ritene. Quelli è Iason, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poi che l'ardite femmine spietate tutti li maschi loro a morte dienno. Ivi con segni e con parole ornate, Isifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte l'altre ingannate. Lasciolla quivi, gravida, soletta, tal colpa a tal martirio lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere e di color che in sé assanna. Già eravam là ve lo stretto calle con l'argine secondo si incrocicchia e fa di quello ad un altro arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso scuffa e sé medesma con le palme picchia. Le ripe eran grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta loco a veder senza montare al dosso dell'arco ove lo scoglio più sovrasta. Quivi venimmo e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privadi parea mosso. E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo, che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: perché sei tu sì gordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: perché, se ben ricordo, già t'ho veduto coi capelli asciutti, e sei Alessio in Terminei da Lucca, però t'adocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca: qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca: fa che pinghe, mi disse, il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora è in piedi stante. Taide è la puttana che rispuose al drudo suo quando disse: ho io grazie grandi a potè, anzi meravigliose, e quinci sian le nostre viste sazie. Fine del 18° canto dell'Inferno.